Buongiorno Giovanni Sartori, professor Giovanni Sartori. Che cos'è questo movimento dei Tea Parties che sta diventando così importante in America? Riflette forse queste insoddisfazioni popolari, come in Italia così in America? Ma ora tu stai in America molto più di me, quindi mi fai una domanda un po' retorica per intrappolarmi. Quindi io risponderò semplicemente che probabilmente è la tecnologia che le rende possibili ed efficaci, cioè la rete. Se non ci fosse la rete, i Tea Parties, che poi non sono quelli del Settecento, probabilmente non esisterebbero o non avrebbero peso. Ora invece con la rete si creano dal nulla e talvolta con forte intensità movimenti come è il Tea Party. Però potremmo fare anche un parallelo di qualche genere. Il parallelo che mi viene in mente immediatamente è con la Lega. Intanto la Lega, come altri casi analoghi, se vuoi pugilisti, avevano un radicamento territoriale, cioè non erano creati alla tecnologia, erano creati dal territorio occupato. Insomma, la Lega è nata senza nessuna pubblicità, è venuta fuori dalla testardaggine di Bossi, e mentre invece questi sono fenomeni molto più subitanei. Dico, in Italia non c'è il Tea Party, ma per qualche anno già esiste Grillo, che è un piccolo Tea Party, piccolo perché dice cose insensate, troppo insensate per essere prese sul serio da troppa gente, ma insomma che ha lo stesso effetto, cioè lui lavora sulla rete. E i Tea Party hanno questa stessa capacità di diffondersi a velocità quasi in tempo reale e di produrre effetto, perché la gente oramai vive attaccata a un qualche strumento elettronico. Chiudiamo con un pronostico, diciamo un sì o un no. Il Tea Party sarà un fuoco di paglia o resterà e si rafforzerà? Ma dipende dalla reazione prima di Obama. E poi anche dalla forza del Partito Repubblicano, perché si abbatte facilmente un partito mal ridotto, si abbatte difficilmente un partito che ha le sue radici storiche nel tempo e anche nella realtà del momento, e che quindi lo può assorbire o quantomeno neutralizzare. La politica è uno scontro tra parti. Se una parte è scema e non sa reagire, resta. Se la controparte dei Tea Party, cioè la parte seria, antica, dei repubblicani, non è scema, lo può contrastare, vedremo. Possono essere fuochi di paglia, ma talvolta i fuochi si spengono, dicono, dipende solo dalla natura del fuoco.